Roma Trastevere, 7 novembre 1973. Care Eleuterio, la casa che mi vide ragazza scrivere pensieri gioiosi sul diario mentre mammina sferruzzava, oggi mi vede scrivere malinconicamente questa lettera a te mentre mia sorella maggiore di là prepara il tè. Guardo l'arazzo appeso alla parete e penso che l'arazzo è un tappeto che ha sbagliato pavimento. E penso anche che la mia sorellina ha ragione quando dice che tenere animali in casa non è igienico e che tu dovresti stare sul balcone. Sei un somare, Eleuterio, non sai nemmeno che il centro storico è un fatto importante e deve essere valorizzato. Non si litiga per una divergenza di opinioni, sempre tua. Roma Parioli, 8 novembre 1973. Inspiegabile, sempre mia. Fai le mie congratulazioni alla tua sorellina maggiore. Preparare il tè con la proboscide deve essere difficilissimo. Se tu avessi scritto la verità su quel famoso diario che compilavi mentre mammina sferruzzava, anziché in legge mi sarei laureato in medicina, specializzandomi in neurologia. Ti avrei legalmente potuto infilare in una camicia di forza. Se vuoi valorizzare il centro storico, rimetti quella cariatide di tua sorella a reggere il balcone di Palazzo Barberini, ma non coinvolgere me, Eleuterio. Ho scritto. Ieri sera ho ascoltato musica poeristica. Mi sono entusiasmato alla romanza di quella pira all'orrendo fuoco. E immaginando tua sorella su quella pira, devo dire che il fuoco era tutt'altro che orrendo. Roma Trastevere, 9 novembre 1973. Care Eleuterio, gatto. Un gatto è solo un gatto e ti prego notare quanto grande sia la differenza tra gatto e micio, che pur essendo la stessa cosa, sono due cose completamente diverse nel senso dell'affetto. Per caso mia sorella ha letto la tua lettera che io le ho mostrato. È andata al negozio di articoli per pescatori, ha comprato tutti i vermi disponibili e li ha sterminati sotto il suo piedino. Dice che la tua è una razza che va distrutta anche a costo di mettersi contro i pescatori. E io penso che il pescatore è una specie di nurse che pazientemente passa il tempo ad imboccare i pesci che non vorrebbero mangiare. La tutela del centro storico ognuno la organizza nel modo migliore, escluso l'assessore al traffico. E io non sono l'assessore al traffico, sempre tua. Roma Parioli, 10 novembre 1973, inalterabile, sempre mia. Ieri il ragioniere della porta accanto mi ha garantito che sua moglie è la donna più inutile che esista. Ha ferito il mio orgoglio. Tu non ci sei. E non mi è stato possibile dimostrargli il contrario. Torno. Ho trovato 6 pulcini in cucina. Chi ce li ha messi? Eleuterio. Ho scritto. La portinaia ha chiarito il mistero pulcini. Dice che le uova fresche non vanno messe nello scaldavivande. Casomai nel frigo. Roma Parioli, 11 novembre 1973. Care Eleuterio, micione, sono di nuovo a casa in attesa che tu rientri come faccio ogni volta che sei fuori casa. Tutto ciò che è bagnato va messo ad asciugare, niente da eccepire, quindi per i calzini e gli asciugamani che hai appeso sullo stenditoio. Ma i pesci rossi, anche se bagnati, non si devono stendere. Ho pulito la moquette e io penso che la moquette non è altro che il silenzio dei nostri passi. Penso anche alla stupida molla che ha fatto scattare la nostra ultima lite. Ricordo tutto perfettamente. Con un libro in una mano ti eri fermato davanti alla porta del salotto, mentre con l'altra mano cercavi di aprire la porta del salotto. Che fai? Vai in salotto, Eleuterio? No, e come ti viene in mente? Uno che sta cercando di aprire la porta del salotto non ha la minima intenzione di andare in salotto. Vuole andare in bagno. Eleuterio, abitiamo qui da 10 anni e ancora non hai capito che la porta del bagno è quella che immette nel bagno. E tu non hai ancora capito che la pistola è quella che immette te in un grazioso cimitero e me in un carcere, finalmente libero e felice. Ma si può sapere perché la porta di questo maledetto salotto non si apre? Perché è chiusa, Eleuterio. Se non fosse chiusa, si aprirebbe come tutte le porte che non sono chiuse a chiave. E perché diavolo deve essere chiusa a chiave? Ho deciso di evitare il traffico nel centro storico. Mia sorella dice che tu parcheggi troppo sulla poltrona che fu di nostra madre. Devi dire a tua sorella che si impicci nei parcheggi suoi e soprattutto non si fermi mai a Piazza Barberini. Come trovano un rudere, bloccano i lavori della metropolitana. Eleuterio, se continui a prendere in giro mia sorella, io faccio uno scandalo. No, lo scandalo lo hanno già fatto i tuoi genitori mettendo al mondo te. Eh sì, perché dopo aver visto come gli era riuscita la prima figlia, non avrebbero dovuto insistere. Comunque in salotto non ci vai. Se viene qualcuno è sempre tutto in disordine. E poi bisogna aggiornarsi. In tutti i centri storici c'è divieto di transito per i privati e divieto di sosta. E allora fai venire qui tua sorella con il vestito verde che portava l'altro giorno. Può benissimo sembrare un autobus. Mi adatterò a farmi portare a Cavaceso da lei in salotto. Dammi la chiave. Niente affatto, non voglio che il salotto puzzi di fumo, sia sporco di cenere. Se non apri subito quella porta, tra poco tutta la casa puzzerà di fumo. E Nerone, di fronte a quello che farò io, diventerà un dilettante. E dopo aver bruciato te, sarà mia premura incendiare la tua sorellina maggiore. Anche a costo di privare gli studiosi di un così raro esemplare di mammut. Mia sorella non è un mammut. Se vuoi leggere, leggi nel tuo studio. E posa quella bottiglia di benzina. Voglio leggere dove mi pare. Apri al traffico il centro storico. O tra poco questa casa sarà una maceria storica. Eleuterio, ti prego, posa quei cerini attorno da mia sorella. Anzi, ci sto tornando. Piromani! Ricordo perfettamente ogni particolare. Ma quando rientrerai, farò come se non fosse successo niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Stavo pensando di chiudere al traffico la veranda in modo da salvare l'unica zona verde a disposizione di tutti.